addormentate nella notte silenziosa, per le spiazze popolate fino all'alba sonnacchiosa. Porto a spasso tanta gente per i quartieri della città, la cocotte, il malvivente, la grandame ed il gaga. E con la pioggia, con la luna, e posso gioco al mio tassì, c'è una notte di fortuna, e sarò ricco al cuor del me. Ma se notte d'emigrania, c'è un miracolo del cielo, c'è una cocca in pompa magna, e mi sussurra il grand hotel. Son le coppie innamorate, che se baciano tra sognate, che se tengono abbracciate sui cuscini del cassì. E con la pioggia, con la luna, con l'occhio da sciapare, coppia fissa di fortuna, la compagna dona dona, consolando mia calanta. Fissa di fortuna la compagna